scappa. La mia roba ti spacca. Di razza è un mix, occhio, ragazze in ginocchio. Ci faranno un film su queste qui come il G8. È tutto a posto finché tu le lasci tutte sotto. Parla, parla, sembri un parlamentare, bla bla. Non è di me che ti devi lamentare, perché prima degli applausi e prima dei miei live eravamo Bonnie e Clyde, ora Jekyll e Mr. Hyde. Ho il tocco, ho lo stile, look Tokyo, Moloco. I signori e le Kaori si capiscono poco poco. Attacca, passami l'acqua, la base spacca. La gente ha pagato, entrata, salgo serata, albergo, cambio, doccia andata. Un'altra notte è passata, ma non so come continuare la giornata. Oh, più di me, più di me, più di me, più di me, più di me, più di me, più di me, più di me, più di me. Mi hai detto, le ragazze serie fanno il rap, ma dove? Le ragazze vanno altrove, i ragazzi vanno dietro. Sei deciso, vado retro dalla mia vita privata. Pazzi, do la scossa come vatta a questi ragazzi qui in città. Li carico e scarico come l'elettricità. In questo paese si sa, una serie non può fare rap. Ma ti sbagli, come la Gelmini con i neutrini. I ragazzini mi imbavagliano, gli metto i bavaglini. Chi imiti mimi come mimi, aiuara, ti schiaccio dall'alto. Ciao ciao sayonara. E complimenti per la tua new entry. Stai al sicuro, hai messo la testa a posto, poi hai appeso le palle al muro. Un'altra notte è passata, ma non so come continuare la giornata. Oh, senza di te, senza di te, senza di te, senza di te, senza di te, senza di te, che ti sei messo con una sedia, con una sedia, con una sedia, con una sedia, più di me, più di me.